Sì, visto che fate spesso attività varie, no? Anche sabato e domenica. Abbiamo fatto un laboratorio per aiutare le donne, un laboratorio fotografico con una signora molto brava, Maria Stella, che ha fatto sì che le donne ci riescano a tirare fuori il loro femminile e a piacersi. Io non ho potuto partecipare perché seguivo gli ospiti, ma era bello, sicuramente molto bello. Quindi si organizza spesso appunto sì, eventi per far sì che le persone stanno bene, ci crescano, insomma, sì, in crescita sì, personale. Quindi vedere anche al di là della televisione. Bene. Sì, e poi l'altra tua vita, beh, sei arrivata qua con la maglietta della CTV. La divisa, no? Vieni dal lavoro proprio. Tu appunto riesci a gestire questo agriturismo nonostante i turni della guida di autobus. Perché da tanti anni che fai questo lavoro? Che guido in generale sono 30 anni. Che guidi gli autobus? Che guido pullman. Tutto. Qualsiasi cosa si muove per strada io. Sì, mi dicevi che hai iniziato a 22 anni. 21. A 21 anni, quindi 30 anni, capiamo già quanti anni hai. 52. Ecco, sì. E a 21 anni guidavi, ti hanno dato un pullman da guidare in montagna, no? D'inverno. D'inverno. No, capito. Sì. Ma poi anche... Ho guidato tutti i mezzi, anche il bilico, ho guidato in Italia, anche il bilico, quelli di una volta, ma sempre a scontrarmi con persone che non hanno mai visto una donna animale. Sì, quindi ero l'attivista e quindi non è stato semplice. Però proprio quando mi hanno detto no, perché sei donna, ho detto ok, allora è il mestiere per me. Hai accettato la sfida. Sì, beh, io penso che la vita sta anche nelle sfide. Certo. Vabbè, tu sembra che ne hai affrontate parecchie. Sì, me ne arrivano sempre. Ogni giorno non c'è tempo per dormire, infatti dormo poco. Bene, e dopo cos'altro potresti raccontarci delle tue attività? Mi dicevi che hai fatto un sacco di lavori anche, no? Sì, diciamo che io come scuole superiori ho iniziato un po' a segretare l'azienda, però non mi piaceva. Il lavoro da seduta? No, il papà mi ha detto fai quello perché avendo il mulino certo è scomoda. E io però volevo la mia indipendenza, io ho iniziato a lavorare 10 anni, io ho sempre voluto la mia indipendenza. E per cui anche se lavoravo a casa non è che ero pagata. Certo. E quindi andavo a lavorare, ma neanche pretendevo. Sì, certo. Andavo fuori a lavorare per avere la mia indipendenza, ma lavoravo anche a casa. Certo. Sì. E quindi le ho fatte tutte, io ho sempre pensato che dovevo saper fare un po' di tutto. Hai davanti al microfono. Sempre fare un po' di tutto, quindi ho fatto... Beh, sono stata anche migrante in Germania, flagellati, come tante ragazze del Belunese, no? Sì. E le varie cose, anche assistente, un ragazzo malato di sclerosi multipla, bene, poi la malgara, il manga con le vacche, far formaggio, yogurt, gestire proprio nei tempi in cui non c'era né l'acqua, né la luce, né le manghe. Ho imparato anche a conciare le pelli come si faceva una volta, insomma tutte le cose dell'arte di arrangiarsi. Ho sempre pensato che era necessario questo e anche affrontare le paure, quindi ho fatto un viaggio da sola in Toscana, adesso scusa in Sardegna, in macchina per dormire solo dentro fuori la macchina. Quando eri giovane? 18 anni. 18 anni? Sì, 18-19 anni, sono partita dalla Malga, da una Malga dove ero per imparare, sono partita in questo viaggio, volevo affrontare la paura e sconfiggerla, sono tutte cose poi che sarebbe, però vabbè, è stato divertente, ce l'ho fatta. E invece la paura è meglio averla un po', conviene. Sì, certo. E conviene un po' di prudenza. Sì, guardarsi bene. Abbiamo ancora un minuto, volevo accennare alla qualità del cibo che tu offri, no? Agli ospiti. Sì, allora io sono un'azienda agricola biologica certificata. La mia terra non ha mai visto un filo di chimico, mai. E infatti lo vedi nell'ecosistema che c'è tuttora. Io prediligo i piatti che non hanno niente di chimico, quindi cerco nelle latterie il latte, il formaggio più sano, le soppresse più sane, vengono fatte col papà, le so un po' riconoscere. Le verdure un po' frittate come uova delle mie galline, che smacino io spaccato, tutte queste cose qua. Abbiamo pochi secondi ancora. Si chiama Agriturismo Mino La Vallena, sì. Acquero, direzione Feltre. Ehi, hai mai sentito parlare dei Netfos? No! Senti qua, i Netfos sono i nuovi robustissimi smartphone della TP-Link, il leader mondiale in router e modem. L'aspetto più importante è che a parità di configurazione, i Netfos costano meno dei più blasonati smartphone in commercio e danno una maggiore disponibilità di memoria. Netfos, i nuovi cellulari buoni ma non cari, li puoi scoprire a... Nuova fotografia Free PC a Consend in via Roma 14 049 538 52 29 freepcitalia.com. C'è chi spende un sacco di soldi per dei nuovi computer di plastica e chi compra solo computer professionali, ex leasing, dalle prestazioni superiori, come i computer venduti da Free PC. Sono modelli prestigiosi, esenti da obsolescenza programmata, garantiti fino a 3 anni e ceduti a un quarto di prezzo per nuovo. Trovi una enorme scelta di computer portatili e fissi ricondizionati a Nuova fotografia Free PC di Consente via Roma 14, telefono 049 538 52 29 o negli altri negozi Free PC del Veneto, www.freepcitalia.com. Eccoci di nuovo in diretta con Gennaro e con Lucia Furlan, che è ospite qui da noi e che ci sta parlando appunto di quello che fa nella vita. Mi sembrava una persona interessante per far conoscere anche agli ascoltatori. E gli stavi dicendo appunto che è tutto biologico, è tutto sano e quindi sì, anche certificato, no? Sì, certificato, inoltre non c'è nessun tipo di inquinamento neanche luminoso, non c'è nessuna luce, quindi vedi le lucciole benissimo, adesso è una cosa spettacolare, vedi le stelle, tutte le costellazioni, sei immersa nel silenzio anche se sei a 10 minuti dal centro del paese. Sì, perché questa bambina è una chiusa, sì, isolata. Sono 36.000 metri di terra, circondata dal torrente Tegorzo, con punti dove poi ci sono cascate per fare i bagni, hanno fatto anche kayak fino da me, ci sono appunto, c'è il campo indiano, che sembra essere stato messo lì dagli indiani prima che io nascessi. E invece l'hai messo tu? Ma c'era da prima, dicono. C'era prima? No, la terra... Non so come spiegare, insomma, sembra che sia stato deciso da molto prima questo. Infatti la gente quando arriva da quel punto si rilassa e sta bene. Sì, c'è una bella energia. Sì, c'è una bella energia, circondato poi da questi grandi platani antichi che fanno da totem. Proprio perfetto per rilassarsi. Ho costruito anche la ruota di medicina poco fa. La ruota? Di medicina. Medicina. Un altro un altro percorso che veniva usato per scrollare e ricaricarsi. E anche quella è divertente perché dove finisce la ruota i cinghiali sono arrivati a scavare fino proprio al confine, non si sono permessi di fare neanche un centimetro più in dentro. Proprio si sente l'energia di questa ruota. Quindi anche i cinghiali la sentono. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quando entri là se hai un suono tutto intorno a te, proprio in cerchio, i grilli, cioè è molto particolare, bello. Sì. Eh sì, confermo tutto perché l'ho provato, sì, merita. Allora, mi stavo dicendo grazie Gennaro per averci portato Lucia e Carlo. Sono una sua amica di vecchia data, ne approfitto per salutarla di cuore, Elena Dacciano del Monte. Sì. Ciao, io con Elena ero in radio cooperativa a Montebelluno, ho fatto 15 anni di radio, facevo anche le trasmissioni. Ti vedo a tuo agio qua, con il microfono. Sì, mi sognavo anche molto con radio cooperativa, c'era anche lei, sì, l'avevo fatto lì. E poi altri messaggi, dunque. Se mi potete dire che linea di autobus fa questa meravigliosa creatura, che così prendo il suo autobus per conoscerla. E se mi potete dire dov'è il suo agriturismo, che non ho ben capito, grazie Anto. La mia linea è il numero 8 Treviso-Venezia, e vabbè faccio turni, quindi se il destino vuole ci incontriamo. E l'agriturismo è a Quero, devi salire al paese di Quero, prendere la direzione Schievini e a 5 minuti dal centro vedi tutte le indicazioni, scendi per questa stradina romantica, bellissima, e arrivi alla fine della strada, sei arrivato. Invece se guardi su Facebook Fattoria Mulino La Vallina, lì vedi anche i programmi delle mie attività, oltre che nel sito www.mulinolavallina.it. Ciao Lucia, appena vengo a Quero per lavoro e per salutare il mio amico, tuo compaesano, aspetta che sia pronto, Michael, ciao da Rudolfo, ciao dopo, vengo a trovarti, ecco, quindi sono, sì, tanti vogliono conoscerti. E poi, cari Gennaro e Lucia, in estate ho avuto la fortuna di viaggiare da Treviso a Mestre con Lucia, simpatica autista, canterina, che ad un certo punto ha chiesto ai passeggeri se andava bene, come era regolata la temperatura. Darle un bacio in fronte, grazie per questa presenza, Franco da Treviso. Ecco. Sì, io penso che quando uno fa un lavoro fatto col cuore, questa è, deve essere la cosa, tanto più se porti anime. Certo, esatto. Questo sono altri messaggi vecchi di prima. Bene, Lucia. Allora, facciamo così, se organizzi qualcosa, me lo fai, mi informi che a mia volta informo i radioascoltatori. Adesso c'è l'idea, però la stiamo ancora studiando, con la mia fisioterapista, speriamo che vada in porto, di un corso di massaggi shiatsu. E dove uno può avere il pacchetto, può dormire da me, perché appunto ho anche appartamenti per le vacanze, tre appartamenti completi, cucina, camera, bagno, anche per disabili, anche tutta l'azienda è anche per disabili. E hanno aperto anche il percorso ciclabile con gli attrezzi per la salute, gli attrezzi per la ginnastica, che tu non avevi forse visto, è nuovo. e tra un po' vado a inserirlo anche nel sito, quindi lo vedete, e dove potete fare appunto questo percorso ad anello di 6 km a piedi, in bicicletta, in mezzo al bosco, molto carino, e fermandovi da me, cioè lasciate la macchina, fate la vostra ciretta e poi venite a mangiare qualcosa, per esempio. Perfetto, perfetto. Sì. Con questo caldo si sta bene. Sì, bella, si sta bene anche perché più della metà della passeggiata è all'ombrino. Sì, in gran parte si è all'ombrino. Sotto il bosco e così. Torno ad un altro messaggio. Buongiorno, ieri per rilassarci io e la mia famiglia siamo stati da Lucia. Ecco, è stata una bellissima giornata. Francesco, il bimbo, ti ringrazia per il buonissimo succo con le buone ciliegie e i simpatici animali. Firmato Erika. Grazie Erika, è stato un piacere avervi avuto da me. Bello è avervi conosciuto. Speriamo che tornate presto. Sì. E anche Fabrizio, che conosce il tuo agriturismo, dice: è amico di chi va in bici. L'ho visto, infatti avete delle bici. Sì, leggero, sì, di tutti i tipi, sì. E infatti un'altra dice: sì, vengo a trovarla. Bene, bene. Allora, Lucia, vedo qui davanti la tua presentazione. Che è bella la frase: acqua, terra, aria e luce, tutto ciò che serve per staccare dalla quotidianità. Mulino, dov'è lì? Bene, grazie di aver fatto anche tutta questa strada da pregazione, se non qui. Un'altra mi chiede: avete menù per celiaci? Sì, sì, sì, sì. Io ho menù per ogni esigenza. Basta dirlo, telefonare prima, sì. Sempre chiamare prima di venire, vado meglio per usarlo. Ho le collaboratrici, però vado meglio così, anche perché le cose sono fresche, se manca qualcosa è tempo di andare a prendere. Comunque sì, cerco di avere di tutto per tutti, un po' di tutto per tutti, per tutte le esigenze. Come i tuoi ospiti sull'autobus, così i tuoi ospiti nel turismo li tratti bene. Sì, abbiamo aperto quest'anno anche molto interessante, molto bello, l'asilo sul bosco. L'asilo sul bosco e poi il centro estivo. Ed è stato proprio molto molto bello per me avere là i bambini, perché ho tirato fuori i giochi che facevo io in natura da bambina, e vedere queste bambine che arrivano qui, avevano paura delle galline, e fare una foto con loro con la gallina in braccio, soddisfatti di aver superato la paura. Adesso qualsiasi biscio, grillo, polso, tutti i loro amici prendono in mano di tutto e di più, hanno proprio superato tutto e sono, stanno bene, usano la mia casa, il bosco, cioè ogni angolo per loro è gioco, e hanno fatto attraverso la maestra molto molto brava, hanno avuto capacità anche di crescere insieme queste bimbe, sono bimbe dei 3-6 anni e sono favolose, favolose, bellissimo averle. Prima esperienza per me di asilo sul bosco, sta funzionando benissimo e mi auguro vada avanti. Sì, perché avete il bosco a pochi metri, no? Sì, ma l'asilo sul bosco è titolo, poi non vuol dire per forza che uno è nel bosco. Però stanno molto fuori. Loro anche abbiamo cominciato a novembre, stavano dentro le prime ore, ma poi su, stivali, tutta fuori, e sempre fuori, non si sono mai ammalate. No, anzi, se no meno, anzi. E hanno imparato a mangiare le verdure prima di mangiare il resto. Ecco. Maestra con tanta pazienza, gli taglia le carote, il finocchio, e si mangia prima la mattina frutta, e biscottino dopo la frutta. Giusto. E a mezzogiorno prima la carotina, e poi la pasta. Sì, si fanno anche la pizza loro, proprio, non so, si dà da fare. po' per tutto, ma ovviamente quando arrivano e hanno finito le loro cose fuori, allora loro si occupano delle galline, dei conigli, fino ai cavalli, spazzolarli, hanno tutti i loro compiti prima di cominciare a giocare, devono fare tutti questi lavoretti che per loro già gioco. Non abbiamo parlato di tutti gli animali che c'hai, no? Sì. Perché, appunto il cavallo, l'asino. Sì, sì, ma sono tutti là che le chiamano, tu vedessi, proprio sono là che le aspettano. Cioè, questa asinella. Sì, l'Agata. Ah beh, che l'altro giorno è stata carina, simpaticissima. Sì, sì. Hanno tutto da insegnare a me questi bambini, perché io lo... Spesso i bambini, se sappiamo osservarli, avere pazienza con loro, infatti ci insegnano molto. Ecco, un altro ascoltatore mi chiede, si può mangiare anche vegetariano? Certo. Certo, c'è di tutto, ma anche la carne biologica, comunque io cerco un po', anche se non lo dichiaro apertamente, però... dai detersivi, anche l'aranciata la compro quella biologica, per dire, perché magari la vogliono. Cioè io ci tengo, insomma, che come faccio per me, sia anche per gli altri. Giusto. Se ti ricordi, quando tu sei venuto, ti ho presentato per prima l'insalata condita con un meboshi, e tu sei detto, no, come faccio a dire? Acidulato di meboshi, che in pochi lo conoscono. Sì. Poi c'è il pane e pasta madre, insomma, tutto con farine bio, sì. Sì, quindi merita. Sì, non che non lo metto nel prezzo, faccio i prezzi comuni, però sono prezzi normali. Certo. Anche l'agriturismo è stato tutto costruito con legno non trattato, sono verniciato con prodotti bio, i muri, tutto quanto, tutto. Tutto cercato proprio... la salubrità, in modo che la persona sta bene all'interno, anche nei colori, eccetera. Ottimo. Merita una visita, assolutamente. Bene, allora Lucia, grazie. Mi raccomando, tienici aggiornati su qualsiasi attività e ci vedremo spesso, verremo trovati senz'altro. Grazie mille a voi e grazie dell'opportunità che mi avete dato. Figurati. E buona vita. Grazie, altrettanto. Ciao, ciao. Ciao.